Radio Forte comunque la voce è chiara. Ok. Voglio dire, quella bottiglia che avevo prima era da tempo, molto tempo. Adesso l'ho voluta sostituire, visto che stamattina l'ho comprata. E adesso si sente bene, senza nessun disturbo, la potenza va bene, quindi lavoro eseguito ad arte. Aggiudicato il lavoro, tutto bene, aggiudicato il lavoro, però nonostante che la giornata è alla pioggia, non si sente nessuno. No, c'era anche Carlo poco fa, però Carlo di Porto, scusa, Claudio di Porto Torre, ma aveva molte scariche lì perché evidentemente si sta avvicinando un temporale. Sì, stavo leggendo ad Alghero, ha distrutto il bar che c'era sulla spiaggia, un temporale, per cui non è certamente delle migliori, là. Sì, c'è anche via Garibaldi, ovvero c'è anche una situazione particolare, c'è via Garibaldi che fa la gatta e quindi anche lì un po' emergenza, mentre in Piemonte c'è casino grosso e lì sono anche molti, dove siamo 11 stelle, questa cosa mista in Francia, molti morti, anche vigili del fuoco e gendarmi. Quindi è tutta una perturbazione collegata, abbastanza potente. Speriamo che a noi ci lasci in pace. Io ti dico che hai una leggera pioggia, anche se poco fa era forte. Speriamo proprio, perché già siamo già abbastanza tartassati col Covid. Figurati, poi ci manca anche tempo. Mamma mia, no, meglio niente. Cosa ci vuoi fare? Un anno così questo, come si può dire, qualcuno direbbe di mezzo, ma è così, cosa ci vuoi fare? Lo so, purtroppo è così, noi non ci possiamo fare niente, certo, però se facesse un tempo migliore, ancora per un bel po' di tempo, perché avete considerato che l'autunno non è nemmeno inoltrato di molto, per cui apprezzeremo le giornate se fossero un pochino più belle, perché ancora ci sarebbe da dire, perché altri anni magari non solamente in ottobre ma anche qualche giorno di novembre ha fatto bello, speriamo bene. E comunque oramai, se non lo abbiamo capito, ci conviene capirlo velocemente che la situazione sta degenerando e ogni anno è peggio, quindi dobbiamo forse preparare proprio a tempi duri, perché sembra che tra incendi, scioglimento dei ghiacci eccetera, stiamo andando a inguagliarci sempre di più. Penso proprio di sì. Vabbè. Diciamo che la colpa è anche dell'umanità, soprattutto dell'umanità, che sta facendo troppi abusi a riguardo del clima e non solo, anche per tantissime altre cose. Mamma mia, non è possibile, ma comunque, staremo a vedere. Hai visto sì cosa è successo ieri, quello che riserva tanto, non fa niente, non è nulla, eccetera. Quel signore lì americano, come ce l'hanno portato tutti all'ospedale? Lui diceva che non era a caso, no, caspita, non è a caso. Adesso invece incomincia a preoccuparsi, perché c'è caduto di persona. Sempre la sua storia. Senti, per gli altri va tutto bene. Succede a noi, è tutto un altro discorso. Poi, per carità, che ragionamenti che fanno. Deve pregare che non li indubbino, perché lui anche non è così giovane, anche se è grosso, però più grosso è più si diverte col virus. Infatti, più grosso è uno e più spazio ha per ribellarsi all'interno di un corpo umano. Lo so, purtroppo è così. come dice il proverbio, ognuno pensa per sé, o meglio detto questa sarete, ognuno pensa per un santo suo. E comunque hai visto, con tutte le possibili precauzioni, tutto quanto, anche in quei paesi che da noi erano tranquilli, invece adesso sono in piena emergenza, è tutto un disastro. Quindi è molto, molto, molto virulento questo entriato. Sì, perché c'è troppa incoscienza da parte della gente, non è possibile, non sta rispettando le regole, non è possibile. Soprattutto i giovani adesso sono quelli che più stanno distruggendo la qualità della salute, perché non è possibile che loro se ne freghino solo perché esclusivamente perché sono giovani, però devono pensare che magari rientrano a casa e ci sono i genitori che hanno una certa età e di conseguenza a questo punto il virus si allarga sempre di più. Anche in quei paesi della Sardegna dove non si era mai sentito niente, almeno perlomeno nella prima parte di questa ondata di virus, adesso in questa seconda parte addirittura stanno chiudendo negozi e tutto. Perché lui non capisce, ma quando mai ha capito? Ci ha avuto tante disgrazie, tante cose, ma pazzesca. Quindi cosa ci aspettiamo? Tutti dati che in Inghilterra, siccome la regina ha l'età che ha oramai, insomma, superato abbondantemente 90, è rimasta sola perché i camerieri, che normalmente tutto lo staff dell'assiste, nonostante siano pagati non bene di più, sono tutti scappati, capito? Sono dire guasti. E lei adesso non si può sottare, adesso è una pista. Certo, lo so, purtroppo. E in Inghilterra, guarda, ci sono delle multe salatissime per chi non rispetta le regole. Si parla addirittura di 10.000 sterline, non è poco, Non è poco assolutamente. Nonostante tutto, ci sono le manifestazioni di protesta che vogliono che sia tutto libero. Ma dico io, ma siete impazziti o cosa state pensando di fare? O avete voglia di ammalarvi? Io dico che hanno voglia di ammalarsi. Per non contare poi qui a Sassari, stavo leggendo il giornale poco fa, il giornale che leggo al computer sempre, 29 contravvenzioni da 400 euro l'una, perché sprovvisti di mascherina. Ecco, sì, ci sono anche dei giovani che stanno preso la multa, ma adesso queste spese ricadono intanto sui genitori, perché la multa quella la dovranno pagare per forza. Voglio bastare. Sì, è un macello, perché poi è stato commesso un errore grave, perché nessuno ha detto che i giovani non se la prendono. I giovani se la prendono, ma quelli meno predisposti se la cavano. Ma ci sono anche giovani che ci hanno rimesso le penne, anche ragazzi. C'era quel ragazzo che se l'è cavata per miracolo, che però gli hanno trapiantato i polmoni, perché questo tipo di malattia non è detto che ti lasci intatto, anche se passi, diciamo, anche se te la cavi. Secondo come ti prende, ti crea dei forti danni ai polmoni. Infatti qualcuno è morto anche, quando è guarito, dopo qualche mese è morto per insufficienza respiratoria, proprio perché le ha distrutte i polmoni, come se fosse un fumatore incallito. Sì, purtroppo sì, è così, in effetti è così. Qualche segno lo lascia, non solamente ai polmoni, ma anche addirittura neurologici, segno neurologico anche lascia un sentito. per non considerare poi il fatto che hanno già in Italia hanno chiuso già 400 scuole. Ma dico io, ma secondo te era il caso di aprire le scuole? Io dico che non era il caso. Per me quest'anno la scuola si doveva saltare. Tu mi dirai, ma ci sono tutti quelli che devono lavorare, d'accordo, siamo d'accordo. Tutti quelli dovrebbero essere pagati ugualmente. Anzi, le faresti anche un favore se non vanno a lavorare essendo pagati, figurati. Però così non si può continuare. 400 scuole che hanno chiuso, dai, è una vergogna. È una vergogna veramente. Hanno fallito completamente. Questo governo ha fallito nel sistema della scuola a riguardo del Covid. Per cui comunque facciano quello che credono. Io non ci devo andare a scuola. I miei non ci devono andare a scuola. Per cui va bene così. Giulio, ma tieni presente che non dobbiamo fare ragionamenti da bar, perché quelli lì sono molto facili da fare. Poi, quando sei al comando, il discorso cambia totalmente, capito? Perché innanzitutto c'è la responsabilità di tutti questi ragazzi. Poi c'è la responsabilità di assicurare tutti i servizi. E, insomma, non è così semplice come si dice sempre, non bisogna dar retta anche alla politica picciola, no, che lo fa solo per fomentare, diciamo così, la sua parte, oppure contro uno o contro l'altro. Se noi guardiamo fuori, guarda la Germania, ha aperto un giorno e ha chiuso l'indomani perché c'era problemi. Tanto è vero che c'è anche la Merkel, che certo non è di petto tenero, ci ha elogiato proprio per la prudenza e per il coso. E le scuole chiaramente vanno aperte. Certo che poi, insomma, ognuno deve comportarsi bene. Purtroppo è così, non si possono bloccare in eterno, perché questa roba tiene presente che potrebbe durare anche fino e oltre ai primi mesi del 2001. Siamo già 6 mesi bloccati. E nonostante tutto ci sono dei paesi che sono qualcuno. Tu guarda la Francia e la Spagna, cosa sta succedendo. Altro che Italia. Però se stanno ancora fermi, poi dibattito a rotto. Certo non sto dicendo di aprire tutto in una maniera più assoluta, però di essere sempre più severi nel fatto dei comportamenti, perché sono i comportamenti che stanno facendo danno, non è la politica del governo che si è presa ad esempio anche dagli altri paesi. Tu sai che finché devi decidere tu è un conto, se poi decidi e gli altri non ti danno retta, è un cavolo tutto uno, capito? Il problema vero è quello che non ti danno retta. Lo so, non ti danno retta, ma qui a questo punto si manifesta l'incapacità del governo, che non è capace di fare rispettare le regole, e per cui non la colpa, secondo me, parte sempre dall'alto. E la gente, sì, perché io ho visto che nei primi 3 mesi, da marzo a giugno, tutti quanti hanno rispettato le regole, tant'è vero che ormai qui in Italia era già quasi a zero il Covid. Poi hanno dato via libera, io capisco l'economia, tutto quello che vuoi, ma l'economia senza la salute non servirebbe a niente, guarda, non servirebbe a niente. Pertanto tutte queste cose, la responsabilità del governo, d'accordo, tutto quello che vuoi. Però io intanto avrei cominciato a tagliare quest'anno la scuola degli elementari e anche delle medie avrei tagliato, avrei lasciato solamente in funzione l'università, il liceo e basta, perché i ragazzi troppo giovani sono incoscienti e lo stanno dimostrando come tutti tantissimi giorni. Lo vediamo, non a caso le prime 400 scuole sono già chiuse dopo 15 giorni che avevano appena aperto. E insomma, anche a Sassari, ad esempio, ti faccio un esempio, a Sassari, nella scuola di Monte Rosello, su Alto, via Manzoni, c'è il sistema di ingresso dei ragazzi a scuola, no? ogni scuola, ogni aula ha la sua striscia colorata da passare e devi passare lì, i ragazzi devono passare lì, entrare lì. Beh, a un certo momento c'era una signora, ha fatto, e mio figlio dov'è che deve passare? Sulla striscia arancione. Va bene, d'accordo. Beh, va a cercare la striscia arancione, e la striscia arancione non esisteva. Ma insomma, è iniziata la scuola, e non sai nemmeno dove deve passare il ragazzo. Questa, secondo te, è l'organizzazione? Diciamo che quella Azzolina, quella ministra dell'istruzione, ha fatto un casino del diavolo. Non si può dire che il governo non abbia colpa. Il governo ha colpa e tante anni. Però devi pensare, se ha colpa l'Azzolina come ministro, figurati che colpa c'hanno i ministri di tutti gli altri paesi. Cioè, vero come vero che nonostante tutto noi siamo sempre quelli che stanno andando meglio di tutti in assoluto. Quindi insomma, ti ho detto che quando si è al comando le cose non sempre si hanno visto, purtroppo è così. No, non la puoi prevedere tutto, anche se lo prevedi, poi come ti dicevo, che la gente fa finta di niente. Io avrei continuato innanzitutto a chiudere gli stadi e non avrei dato retta a questi che li vogliono aprire per fare grossi casini, perché molti sono dovuti, tipo l'ultimo che c'era stato, non ricordo dove, credo sia addirittura a Sardegna, è stato generato il focolaio da un matrimonio che sono andati lì a fare il matrimonio e poi sono finiti tutti in ospedale, capito? Perché c'era un contagiato. Sai, bisogna stare in un periodo in cui bisogna stare molto attenti a queste informazioni che vengono date, perché molte sono di parte, stanno dicendo tante di quelle minchiate non vere, guarda che c'è veramente una cosa sbalorditiva. Sono andati male, diciamo, se fossero stati peggio di tutti gli altri paesi, ma in Europa, tutti guardati che c'era, che dalle parti liguri, dove c'è il confine con la Francia, ci sono molti francesi che si stanno trasferendo in Italia perché è più sicuro. Quindi non credo che si sia operato male, se addirittura da fuori ce ne stanno venendo in casa nostra, sperando che non siano già contaminati qui. Ho detto proprio oggi, facendo una statistica delle persone che si stanno spostando in Italia, ovviamente sono persone che se lo possono permettere, quindi stanno facendo la doppia casa in Italia praticamente, perché è più sicuro. E come quando dicono la delinquenza, no, adesso tu sarai convinto che l'Italia è un paese poco visibile a causa della delinquenza, però le statistiche che parlano chiaro dicono che in Europa siamo tra i paesi più sicuri, quello che c'ha meno omicidi, quello che c'ha meno rapine. Eppure qualcuno va a dire ma bisogna scrivere questo, bisogna fare quell'altro, capito? Ma è tutto a fini politici, non rispecchia la realtà vera e propria anche rispetto agli altri paesi. Lo so, ogni paese chiaramente fa le cose secondo il loro modo di pensare, questo è vero. Ma intanto noi cerchiamo di essere noi previdenti, perché da quando hanno aperto è successo un casino del diavolo, non si può assolutamente. E quando uno arriva da fuori deve essere controllato veramente. Non sono restrizioni, queste qui sono cose fondamentali, queste regole di restrizione eccetera. Ci mancherebbe altro, e l'abbiamo visto che cosa è successo. I primi siamo noi a subire le conseguenze, che eravamo qui in Sardegna, eravamo grazie a zero, eravamo arrivati i grandi miliardari con i loro milioni, e che poi tra l'altro qui non le lasciano, perché non li lasciano, perché le portano via, visto e considerato che tutti quanti quei locali sono loro, tutti quanti di fuori, e si portano anche il personale. Qui prendono qualche dabbappiatti a farlo lavorare. Sono venuti qua e hanno distrutto la nostra serenità. Cazzo, ci hanno riempito di virus, ci hanno riempito. E poi sono anche contro di noi, incominciando ad esempio dai laziali che ce l'avevano contro la Sardegna, i campani, soprattutto quel De Luca che faceva schifo nel modo come parlava della Sardegna, e adesso sta pensando di chiudere tutta la Campania, lui. Oggi come oggi, ad esempio, la Germania da oggi la mascherina obbligatoria, questa l'ha detto la Merkel, e prima noi c'eravamo tutti liberi, adesso si sono resi conto che siamo arrivati a un punto di non ritorno indietro, e allora stanno cercando di prendere provvedimenti, però i provvedimenti non basta, è inutile che tu ad esempio mi chiudi i locali dalle 10 fino alle 10 li fai fare attività, e dalle 10 in su non me li chiudi, cioè me li chiudi, non è così che fanno, guarda che il contagio si fa anche prima delle 10, prima delle 9, prima delle 8, per cui tutte queste restrizioni così sballate, perché sono tutte restrizioni sballate, non hanno nessun senso se tu le applichi senza una severità giusta. Non va bene, nella maniera più assoluta. La salute è salute. Lasciamo stare l'economia. L'economia va avanti lo stesso. Vuol dire che tutti quanti stringeremo la cinghia, anziché mangiare la carne tutti i giorni, la mangeremo una volta alla settimana. Così che bisogna pensare se vogliamo eliminare questa pandemia, perché questo qui è una cosa che durerà per anni se la gente non avrà un pochino di senno nella mente, nella testa, soprattutto gli stati, tutti gli stati mondiali, non solamente quelli italiani, tutti quanti, non va bene così, guarda. Lo so Giulio, però ripeto, il tuo è un discorso molto semplicistico, però per come è strutturata la società moderna è molto difficile fare quello che dici, perché iniziamo a chiudere, come è successo, i ristoranti, iniziamo a chiudere i bar, e lì la cosa sarebbe ancora ridotta, ma se poi inizi a chiudere molti ospedali, molte parti diciamo anche industriali che producono beni indispensabili, tipo anche il cibo, perché no, tipo le certe fabbriche che producono ricambi per strumenti indispensabili, ben presto ci troveremo senza luce, senza acqua e chi se ne ha più ne metta, capito? Non bisogna pensare che chi ha incarichi di responsabilità queste cose non le metta in conto. Purtroppo nella situazione globale di un'economia a livello di paese va tutto considerato, va tutto messo in gioco. E poi una certa parte di rischio purtroppo c'è, è inutile starla lì a negare, il rischio c'è sempre, a prescindere, però insomma non si può chiudere. Poi come stai con i ragazzi, come stai? Se non li mandi a scuola, quelli se ne escono di casa, sai benissimo che da giovani chiunque, quante volte siamo usciti di nascosto, eccetera, eccetera. Pensi che adesso non lo facciano, lo farebbe anche peggio, perché almeno la mattina li fini al sicuro, tra virgolette. Poi bisogna anche essere bravi a gestirli. Però, ripeto, non è così semplice, è una situazione che è per la prima volta nel mondo industrializzato attuale che si verifica. E chissà quante altre ce ne saranno, sperando che tutti i mali non vengano a far nuoce. Però è così, c'è poco da fare. Cosa fai? Dispari, metti il fuoco come era nella guerra mondiale. Purtroppo non è possibile. Ecco. Io dico solamente che un altro pochino di restrizione come quella che abbiamo già fatto per quei 3 mesi non farebbe male, e se avessimo continuato per almeno un altro paio di mesi senza che dessero l'ordine di aprire discoteche e tutte queste cose qua, io dico che a quest'ora non ci sarebbe più stato, perché è normalissimo che non fa altro che evitare sempre il contagio dal momento che la gente si sposta continuamente, eccetera. Io ho la penso in questo modo. Loro se ne fregano, perché chi ti amministra se ne frega. Come vedi, qualcuno viene, è stato contagiato di questi che ti amministrano. Però la maggior parte di questa gente è tutelata in tutti i sensi, non c'è niente da fare, chi si ammala è sempre la povera gente, è il popolo, o meglio il popolino soprattutto, che si ammala e che muore anche. Caspita, di loro, dimmi chi sono i politici italiani che sono stati contagiati. Berlusconi perché ha fatto lo stupido che se n'è andato in vacanza. L'altro, quello del PD, che aveva preso contagio, che gli è durato pochi giorni e è guarito subito. Degli altri, quali sono i politici che hanno preso il contagio? Non me ne ricordo nemmeno uno io. Perché vedi bene che a questo punto loro sono tutelati alla grande, o meglio si tutelano, però non sono in grado di tutelare il popolo. Ecco qual è il discorso. Io la penso in questo modo. Per me la colpa è sempre di chi ha il bastone del comando, non c'è niente da fare. E questo vale anche per i genitori, riguardo i figli, sia ben chiaro, tutta una serie di conseguenze, certo. Però anche i genitori dovrebbero essere un pochino più severi con certi figli e farli restare in linea e in ordine come si deve stare, perché non è possibile continuare in questo modo. Sì Giulio, io ti capisco perché diciamo anche forse rispetto a me appartiene a una generazione precedente che magari ha vissuto anche la fine della guerra, ecco. Quindi si capisce, nessuno ti sta dicendo niente, però ti ripeto, la società di adesso è molto diversa, è tutta interconnessa, è tutta, succede una cosa in Germania, si rispetta in Italia, l'Italia non produce pezzi di macchina, l'industria tedesca, gli automobili subito ne risente. È tutto collegato, capito? Non si può dire solo io penso tanto mio come voleva fare qualcuno e mi chiudo in casa. Al giorno d'oggi è proprio impossibile. Poi per i figli già lo sai, io ho dei colleghi che hanno proprio questo problema. Ad esempio una mamma è confortata dal fatto che sta facendo quello in gergo, si chiamano smart working, quindi lavorare a casa. Beh, lo sai, i figli cosa le hanno detto? Era meglio se te ne stavi in ufficio, perché almeno non rompevi le palle qua, capito? Eppure sono famiglie assolutamente per bene, sono dei figli anche bravi, però hanno proposte allucinanti. Tipo una ragazza ha detto, guarda mamma che stasera vado a una festa con gli amici. Quella è sbiancata, ma è per cosa? E devi litigare, devi dire, tu da casa non ti muovi. E lei, io tappo. Ti rendi conto che tutti i giorni c'è questa cosa, questa guerra anche nelle famiglie, che è veramente dura. Dura perché non siamo più nei tempi passati, tutto lì. Ripeto, ti capisco, molte cose ti posso anche dare ragione, però i tempi sono cambiati, non so se è meglio o in peggio, però è così, dappertutto, non solo da noi. Ma cosa vuoi che ti dica? A questo punto ognuno deve pensare allora per se stesso, come ho detto poc'anzi, all'inizio di questa discussione, per cui andiamo avanti così, in questo modo, peggio per chi allora si ammala, però deve pensare che ci sono gli anziani, ci sono, soprattutto quelli che hanno patologie, che sono a rischio, e quelli non credo che si espongono più di tanto. Se poi ci sono dei figli incoscienti in una famiglia, evidentemente li hanno educati male. Io la penso in questo modo, perché sono di queste idee, poi vedano loro, facciano come credono, perché intanto è inutile, sì, non so cosa dici, guarda. Per me stiamo sbagliando tutto. per me è sbagliato tutto un comportamento totale, non solamente da parte del popolo, ma anche da parte del governo, da parte del governo europeo, da parte dei governi del mondo, tutto, stiamo sbagliando tutto. L'umanità ha un problema grandissimo, ma grande veramente, che non riesce ad autogovernarsi come si deve, in fatto di salute. Per cui vedi bene che a questo punto, come diceva il proverbio, daremo andare a vacca, come ti anda la vacca, anda a bacciccia, va bene, pensiamola così, e poi ne avremo dei risultati piacevoli veramente, guarda. Sì, Giulio, purtroppo è così, su quello sono d'accordo. L'economia spesso nei nostri tempi ha preso anche il sopravvento sulla logica, sul senso, ecco. E quindi è così, purtroppo siamo tutti in un'altra barca. E c'è il timoniere Bacicca, che io ho sentito da piccolo questo detto, non so chi sia, però Bacicca, ma l'avevo detto una mia zia che è molto anziana, però non lo sono scordato, io penso che era un tipo, non so, da cui è uscito il detto proprio, che andava sempre male questo tipo, e così fa questa barca da lui comandata. C'era qualcuno che forse voleva entrare, avanti, buonasera. Non vuole entrare, pazienza. Mi prendi Giulio? Ok, ma comunque io me ne devo stare tranquillo, perché alla mia età problemi non ne ho. Posso dire che ho problemi di salute, così sì, ma problemi di altro genere, però mi dà fastidio vedere certi comportamenti da parte delle persone, ma non è possibile, e non solamente dei giovani, perché io ad esempio quando è sabato sono andato a ritirare la pensione, no? Lì all'ingresso delle poste centrali, quando sono arrivate c'erano una trentina di persone, tutti con la mascherina, e tutti questi anziani, perché la gente praticamente che stava facendo la fila per ritirare la pensione. Ecco, no, voglio dire è questo io, che da parte degli anziani ci sono i rispettosi delle regole, perché ci sono. Poi naturalmente, siccome la fila era partiva dalla strada addirittura, e lì in via di Gattassata transitavano tantissime persone, tu vedevi quelli più anziani, sia donne che uomini, tutti con la mascherina. Qualche giovane portava anche la mascherina, certo, però la maggior parte delle persone, nonostante che c'è la contravvenzione di 400 euro, circolava in giro senza la mascherina. E quando qualcuno ce l'aveva sotto il mento, non va bene così, ma dico io, eppure la mascherina la devi tenere permanentemente, perché la regola è quella, quello lì è il protocollo del sindaco, io sto parlando di Sassari, perché vedi bene, voglio dire che questo, gli anziani, le persone di una certa età, quindi che hanno la testa attaccata al collo, queste regole le rispettano, mentre invece da parte di quelli più giovani non c'è il rispetto. Per cui cosa facciamo? Interrogativo. Ma innanzitutto bisogna lavorare sulla cultura, che sarebbe già una cosa buona, e sull'istruzione, e questo non si può fare che nelle scuole. Ma qualcuno ha anche proposto di ritornare, figurati, quando in Italia c'erano molti analfabeti, c'era, non so se te lo ricordi, io l'avevo visto che ero molto molto piccolo, ma non lo ricordo ancora, il professor Alberto Manzi, che faceva, allora la televisione era bianco e nero, faceva le lezioni di alfabetizzazione per le persone che non sapevano né leggere né scrivere, però le povere ne conoscevano la matematica. È stato un grande successo, qualcuno ha riproposto di fare queste lezioni anche in ambito moderno, cioè per far conoscere soprattutto agli anziani in informatica, eccetera, ma nelle parti basilari, quindi abbastanza semplicemente. Ad esempio, io questo storia delle pensioni, guarda, io ho scoperto a volte anche alle 6 del mattino, io non sopporto che vedere le persone, tipo in via Alghero, perché mi capita di andare lì, che sono lì dalle 6 del mattino e le porte aprono alle 8:15, facendo la fila per essere qui. Una cosa che non esiste. Dovrebbero vietarlo, cioè dire, signori cari, tutte le pensioni saranno accreditate, punto. Dovrebbero fare in modo, invece di fare delle trattative con le banche, con le poste, con chi cavolo vuoi, in modo da avere delle cose vantaggiose per chi deve ritirare la pensione e fare un conto ad hoc, dicendo, guarda, da oggi la tua pensione la trovi lì, esattamente quel giorno, esattamente a quella ora. Se vuoi contanti, vai in uno dei tanti bancomat e te le decidi. Oppure ancora meglio, ma tra poco finalmente sarà obbligatorio, paga con la carta di credito o col bancomat. Che cavolo! Io vedo gente alle casse con questi spiccioli, togliendoseni cosi di lì, tutta la gente che sbuffa aspettando perché non trova il resto, non trova l'ufficio. Gli altri, me compreso, passano, mettono una carta prepagata, 2 secondi, 1, 2, fece lo scontrino pagato, ciao, arrivederci. Cioè, ma insomma, ti rendi conto che anche gli anziani un po' si devono mettere la mano sulla coscienza e aggiornarsi un pochettino, dato che ci sono questi strumenti fantastici per avere tutto. Bisogna un pochettino anche con l'aiuto dei nipoti, delle figlie o di quello che si ha, avere un minimo di aggiornamento, non ci si può sempre dormire sugli allori, ecco. Ecco, appunto, questo sistema sarebbe bello, certo, che ognuno andasse magari dal banco ma si ritirasse la pensione. E allora tutto questo, visto considerato che del caos che si forma sempre in tutte le file, in tutti i posti che si va, per quale motivo allora il governo non lo rende obbligatorio? Perché non obbliga le poste a dire voi dovete dare un numero a ogni pensionato e a ogni utente e deve andare lì al banco ma per ritirarsi i soldi, perché non è assolutamente possibile che si creino questi assembramenti negli uffici postali o nelle banche nella maniera più assoluta. E questo allora perché non lo fa lo Stato? Io questo non lo capisco, per quale motivo non lo fa? Ci saranno forse degli interessi che hanno loro o che hanno le poste o che hanno le banche, non lo so. Io dico solo questo, è vero, sarebbe comodo. Io ad esempio cosa faccio? Lui ritiro le poste e poi vado alla nazionale perché sono correntista lì da tanti anni e li trasporto lì. Però perché ci vado? Io non ce l'ho il banco posta della pensione, non ce l'ho assolutamente, non l'ho mai fatto. E non lo farò mai, finché non sarò obbligato a farlo. Per il semplice motivo che magari mi piace fare 4 passi, andare lì, perché arrivo, ecco la casa, arrivo lì a Monte Rosello, parcheggio, e poi da lì mi faccio 4 passi all'ufficio postale. Però certamente non vado alle 6 di mattino, come ci sono certi deficienti che aspettano che magari quello l'ufficio apra alle 8:15, non ne vedo la ragione per quale motivo uno debba alzarsi all'alba per poter andare a mettersi in fila. Quelle da stupidi, quelle sono da persone ignoranti. Appunto, siccome esistono troppe persone ignoranti, c'è troppa ignoranza in giro, per quale motivo lo Stato non obbliga allora le poste o le banche a mandare per forza le persone al banco? Ma questo mi chiedo io. Guarda, se ci fosse Totò, sai cosa direbbe? Direbbe, è qui che cassa l'asino. Infatti, ci hanno provato in tanti in realtà a fare questo obbligo, ma subito è uscito fuori il sindacato dei pensionati che per i pensionati sarebbe troppo costoso, che loro il bancomat non ce l'hanno, che loro non lo sanno usare, che loro qua, che loro là. Insomma, c'è sempre, sai, socialese, no? Sento Gabbi, sento Barretti, che quando vuoi fare delle iniziative serie, subito c'è qualcuno che a prescindere è contrario, per una scusa o per l'altra. E da lì hanno sbagliato, perché hanno sbagliato tanti governi che ci sono stati, perché questa cosa doveva essere fatta da tantissimo tempo. Perché tant'è vero che l'hanno addirittura, hanno dovuto metterlo, credo, per indice di cognome, no? Oggi tocca la A, domani tocca la G, dopodomani tocca la S. Capito? Questo per diminuire questa cosa che è diventato quasi fantozziana, se tu non ti ricordi, Fantozzi quando andava a ritirare la pensione puntualmente gliela rubava. Così si eviterebbero tante cose. Poi, guarda, tutte le banche, anche le imprese postali, tutto quanto, le poste e tutti comunque, fanno l'accredito della pensione automatico, non fa bisogno di andare. E se uno si può fare una passeggiata, se la fa. Quindi, capito Giulio, continuano sempre a girare, sul punto, poi quando si dice va bene, ok, siamo d'accordo, andiamo, non ci viene nessuno a fare le cose. Scusa un attimo, vai via. Scusa che c'era il gatto che si attende alle finestre che sono con la zanzariera e le strascia. Ogni tanto anche quelli vanno richiamati all'ordine. Sono troppo, tra virgolette, troppo umani anche questi gatti, come comportamenti. Anche quelli, è vero. Anche quelli vogliono richiamati all'ordine, è vero. Sì, ma appunto, perché non lo fa il governo, la regola del banco? Questo per quel motivo, perché ci sono persone di una certa età che magari non lo sanno usare, la persona magari c'è quello che non ci vede, c'è quello che ha bisogno di essere accompagnato, insomma è tutta una serie di circostanze. Ci sarebbe una soluzione, magari che so io, orientati verso il CAF ad esempio, ma anche lì ci sarebbe un assemblamento di persone che non finiscono mai, perché io mi sono reso conto anche quando vado lì da mio cognato c'è l'ufficio del CAF, no? Tu devi vedere il numero di persone che c'è lì. Ci devi stare una mattinata in fila aspettando che ti possano fare una pratica, perché vedi bene, sono cose impossibili a questo punto. Casomai la stupidità di andare alle 8, alle 6 del mattino per entrare alle 8 e un quarto, questa è proprio la stupidità di persone, ma non lo so, evidentemente sono delle persone che non dormono e allora si sono molto presto e vanno a fare queste cose, cosa vuol dire? D'altronde ci sono quelli anche che portano il cane alle 5 del mattino. ci sono quelli che sono sonnambuli, e addormentati vanno in giro con il cane. Vabbè, anche quella è una regola, bisogna fare anche quello, certo. Ma ci sono tante di quelle cose da rivedere nel mondo intero, non solamente da noi, ma nel mondo intero, che giustamente è impossibile poter sistemare tutto nella maniera più assoluta. Poi abbiamo i parlamentari che non hanno voluto fare niente, perché già l'abbiamo sempre convinto che il Parlamento è 900 persone e ci vanno in 200 e tutti gli altri dove sono? A timbrare non ci va nessuno, o meglio mandano qualcuno, timbrano tra di loro stessi, si fanno i favori e però si prendono i soldi senza lavorare. Adesso prendiamo il taglio dei parlamentari, che lo facciano il taglio dei parlamentari. Ora sì, intanto ho letto che la legge entra in azione tra 60 giorni. Tra 60 giorni tutto il popolo si è dimenticato di aver votato il taglio dei parlamentari e loro poi se ne fischiano, nel frattempo magari va avanti, trovano le scuse, cade il governo. Guarda, questo taglio dei parlamentari non lo so se si farà. Guarda Giulio, sta arrivando il temporale, però il cielo nero. Riguarda quello anche lì. La gente si deve informare. Allora, abbiamo fatto il referendum e ancora la gente non ha capito come funziona. Questo referendum andrà in vigore dalla prossima legislatura, quindi che dovrebbe essere, se non non ricordo male, nel 2021 o nel 2022. Comunque, mettiamo al caso che il governo accada domani e che quindi si sciolgono le Camere. Dopo domani entra in funzione, per dirla proprio in maniera elementare. Quindi, siccome è legge dello Stato, per di più legge costituzionale approvata dai cittadini tramite il referendum della settimana scorsa, praticamente la legge è fatta, non si può tornare indietro se non con un altro referendum che perderebbero e con un'altra modifica costituzionale che sarebbe, dato i numeri, assolutamente impopolare. Quindi questa volta non hanno è legge, punto e basta, ha capito? Il problema che stai mettendo tu non esiste, finché rimaniamo in democrazia, capito? Poi senza una dittatura allora possono fare quello che vogliono, in corsi, quello che vogliono. Il problema dei pensionati, ad esempio, moltissimi pensionati, anzi, per essere più corretti, diciamo, moltissimi anziani sono soffrono di patologie. Io veramente ti sfido a trovare qualcuno che dopo i 60 anni non ci abbia una patologia. Molti ce l'hanno anche prima dei 60 anni, dai 40 in su. Pensiamo al Siena cronico, che è molto, se detto così sembrerebbe niente, invece è enormemente doloroso e è anche invalidante. Che sia un'altra patologia, cardiaca, eccetera, eccetera. Tutti quanti più o meno hanno queste cose, quindi quando uno dice ma ci sono anziani che vedono poco, ma anche io ci vedo poco, guarda, a volte c'ho anche mal di schiena e non riesco a inchinarmi, tanto è vero che sono stato umiliato, tra virgolette, perché per carità mi ha aiutato, mi è caduto un ufficio e non riuscivo a inchinarmi a raccoglierlo, beh, me l'ha raccolto una vecchietta che ce l'ha risposto, guardi che è qua, guardi che è qua, e me l'ha dato, e poi io sto ancora lavorando, non sono in pensione, ci andrò tra non so quando, non so se siano 5, se siano 4, perché il lavoro che faccio mi piace e quindi rimango. Capito Giulio? Quindi anziani hanno tutti i patologici. La mia dottoressa, che ha anche lei la testa, sta ritornando finalmente a poter lavorare, perché il suo tempo era quello di uscire fuori e dire alla gente prevalentemente anziana di abbassare le voci, perché erano 4-5 di questi vecchi e meno vecchi, senza voci, dando fastidio anche agli altri pazienti che magari erano in visita. Adesso è tornata a vivere, perché chi vuole le ricette telefona e le manda per via telematica. Se c'è un indirizzo mail, cosa che dovrebbe essere obbligatoria, te la manda lì, tu te la stampi, poi in farmacia, oppure anche sul telefonino, vai lì e fai vedere la foto oppure la carta che ti ha mandato la dottoressa Zanini, e ti danno le medicine e non c'è più bisogno di andare al medico, perché troppa gente ci è andata per fare chiacchiere, per perdere tempo veramente, a discapito delle persone realmente malate che avevano urgenza. Lo sai quante ne ho viste di queste cose? A tonnellate. Adesso ci aspettiamo che passi la legge, finalmente, dopo tanti anni delle spese tramite carta elettronica, così almeno ce ne togliamo anche un po' di evasione fiscale. Speriamo che sia veloce la cosa, anche se c'è molta gente che si oppone, perché sono evasori di natura, evasori ed elusori. E lì c'è sempre il problema dell'anzianità. Uno non può solo tutti ricevere la ricetta tramite online, perché non è possibile, perché ci sono i vecchietti che il computer non lo sanno usare, c'è gente che non vede nemmeno a leggere il computer. Casomai dovrebbero fare in questo modo: uno telefona al medico, o meglio la cura che gli dà il medico deve essere direttamente, ecco, vai nella farmacia della tua zona, del tuo quartiere, che la tua ricetta è già lì, e dunque saranno i farmacisti a darti le medicine che io ti prescrivo. ma non a casa, perché a casa non sono tutti che possono avere il computer e non tutti che lo sanno usare. Poi non parliamo anche del fatto delle patologie che ognuno è arrivato alla certa età, perché ce l'ha. E allora mi spiego, io chiedo questo, come mai il governo non fa altro che aumentare l'età pensionabile, visto e considerato che dai 60 anni in poi le ammaccature fisiologiche tutti ce le abbiamo? Per quale motivo continua a sfruttare l'umanità a 40 anni, 42 anni, 45 anni di contributi, mentre loro invece in pochi anni, basta una piccola legislatura, e hanno subito la pensione e hanno anche il vitalizio? Tutte queste cose vogliono le viste, purtroppo loro non le rivedono, perché? Perché le fa comodo, perché vogliono vivere sfruttando l'umanità, ecco qual è il discorso. Ma anche da lì si sta lavorando, tieni presente che questi privilegi, che purtroppo bisogna anche dire la verità, gli hanno permesso la tua generazione, perché sono nati, lo sappiamo tutti come, con la Democrazia Cristiana. E voto a Tizio perché Tizio, siccome che ne so, è assessore comunale, mi fa entrare mia nipote. Però era una cosa assurda, sì, tutti lo facevano, però per far entrare quella persona raccomandata c'era il padre di famiglia che magari non aveva lavoro, veniva scavalcato. Quanto è stato successo? Perché io l'ho visto tantissime volte capitare queste cose. Non passavi mai, eri il primo, però non passavi, c'era sempre qualcuno che arrivava all'ultimo momento che ti scavalcava. E questo era fatto da tante persone di cui, soprattutto parlando di Sassari, si conoscono i nomi. E quello l'ha fatto entrare il tizio, e l'altro è entrato in ospedale da Caio. Però quelli meritevoli, quelli che avevano anche i titoli, rimanevano senza una strada. E questa è purtroppo è stata una prerogativa di una certa generazione, in cui tu sai benissimo, perché erano proprio gli anni in cui tu eri operativo, diciamo, eri lavoratore. Quante volte l'avrei sentito, ha fatto entrare mio figlio a vario voto, eccetera, eccetera. No, il lavoro si deve meritare tramite concorsi giusti e tramite merito, non tramite regalie. Poi abbiamo visto infatti la gente che ci si ritrova in mezzo, la gente che non sa lavorare. E tu sicuramente ne avrei visto tanti, come tanti ne ho visti io. E appunto è proprio quello, che le tangenti ce le hanno sempre prese e penso che stiano continuando a prendersi. Qualcuno sta preso anche qualche appartamento lì al mare, io adesso non faccio i nomi, ma già mi capisci, già lo sai chi, io sto parlando di Sassari, qualcuno sta preso anche l'appartamento, si è preso, che poi alla fine è stato anche condannato, è stato, perché? Perché per peculato lui aveva ottenuto da un'azienda, da un'impresa un appartamento, gli è stato dato, proprio perché aveva fatto dei favori a certe persone. E così non va, dai, non va. E se una donna va a chiedere il posto di lavoro, subito le fanno la proposta. Se non ci sei, il posto di lavoro non ce l'hai. Ma dico io, ma questi modi di amministrare sono? Questi qui sono atti delinquenziali, secondo me. Purtroppo Giulio, purtroppo è così, però in una società moderna se deve cambiare, queste regole devono morire, perché la gente deve essere innanzitutto avere un titolo di studio che permetta loro di ragionare con la propria testa. Guarda, io avevo una professoressa di chimica molto brava, che magari ti dava anche 4 per una cretinata, però alla fine ti diceva: mi raccomando ragazzi, pensate sempre con la vostra testa, non con quella degli altri, perché i pericoli di pensare con la testa degli altri sono veramente tanti, tanti, tanti. Quindi ognuno dovrebbe iniziare un pochettino a valutare bene le informazioni che riceve, capire se sono informazioni paroccate oppure se appello e veniva detto che il giudizio non si è fatto infinocchiare come quasi sempre succede. Comunque, caro Giulio, ti comunico che qua sta arrivando il temporale, vedo la fatta dal vero ed è tutto nero, stanno iniziando a sentire qualcosa anche in lontananza, sembra che fosse previsto, ma quindi tra poco, come si dice, staccate le antenne e spegnete la luce. Se sta arrivando dalla parte della gira, arriva anche qua, come sempre, magari un po' più tardi, però arriva anche qua, strada facendo, o meglio, mentre le nuvole percorrono il suo tratto di percorso, arriva anche qua, indubbiamente, non ci sono luce. Magari chissà da qualche altra parte sta piovendo anche forse. E te l'ho detto che c'era temporale al Ghero, ho detto questo bar che c'era lì nella spiaggia, adesso anche lì, ecco la povera gente, oltretutto è anche sfortunata, adesso quello se vuole rifarsi il baretto lì in spiaggia dovrà spendere un bel po' di soldi, perché sicuramente nessuno lo aiuterà, dovrà lavorare solo per poter spendere e rifarsi il baretto, sempre che glielo consentano poi di ripiazzarsi, perché tante volte poi non gli danno più nemmeno il permesso di mettere un baretto lì sulla spiaggia, cosa che è necessaria, perché ci vuole, però ormai stiamo andando incontro al tempo brutto, per cui a questo punto non lavora, però un danno questo l'ha avuto, ma anche il tempo si mette contro. Tutto è sempre contro il poveretto, chi ha i soldi invece si difende sempre alla grande, sempre, in tutti i sensi, e molto spesso anche per la salute. Naturalmente poi ci sono i casi estremi che nemmeno i soldi possono farci niente per la salute, però se uno ha i soldi sicuramente è meglio di chi non ce li ha, questo è il contatto. E intanto nel frattempo in frequenza non è entrato nessuno, tutta la sera qua, e oggi non posso pensare che la gente se ne sia andata in giro, perché con la giornata brutta che c'è, comunque, siamo contenti lo stesso, non c'è entrato, peggio per voi, non chiacchieriamo lo stesso in due, vai Gianfra. No, sono in CMR, molti sono in CMR, ogni tanto prende questa cosa del PMR, che poi per sentirsi sono costretti anche a mettere altre meterle, quindi automaticamente sono anche, diciamo, fuori legge, ecco. Figurati che un'altra settimana ero a Porto Torres col portatile, col gommino, dentro la macchina, e io li sentivo, cosa che neanche io ci arrivo con una stessa in una testa, figurati con la frequenza è anche più alta. Quindi si può immaginare che cosa stanno usando e che potenze hanno, perché poi non, anche lì manca la conoscenza delle cose, capito? Quando manca la conoscenza delle cose è anche inutile parlare. Ecco. Okay, no, non c'è nessuno nemmeno PMR. Io ce l'ho acceso da quando abbiamo cominciato a parlare, qui il PMR è stato acceso, io qui non sento nessuno. Per cui, eppure qui arrivano tutti, arrivano tutti. Vabbè, pazienza, dai. Comunque, stavo certo. Le 7:30 quasi sono, le 7:27. E vabbè, comunque, anche stasera, la serata è passata, è già che è andata. C'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? O vi abbiamo annoiato con certi discorsi? Tutti morti, già. Chiaramente, vabbè, comunque, va bene lo stesso. No, anche se dovesse non aver annoiato qualcuno, noi non ci possiamo fare niente. I canali ce ne sono 40, quindi di cui 39 sono attualmente vuoti. Quindi penso che, insomma, se ne possa fare una ragione, no? Capito? Certo non stiamo disturbando o dicendo parolacce. Ma se i discorsi magari non piacciono, sai, piacciono di più quelli come ci sono arrivando ascolta questa radio, dimmi com'è, forte, è chiara, è... forse questi discorsi appassionano di più quelli che usano il baracchino, perlomeno la maggior parte delle persone. Poi ci sono quelle persone che chiaramente questi discorsi le fanno in maniera un pochino più seria, però lasciamo stare, tante lutte. Non è che voglio polemizzare, però è così. È così. Non...